Ben ritrovati, sono Livia Napolitano. Il nostro viaggio a chilometro zero continua nei Carrugi di Genova. I Carrugi sono i vicoli, ed i vicoli delle città di mare hanno sempre qualcosa di magico che li unisce. I Carrugi di Genova sono fatti di panni stesi al sole, di colori, di muri incrostati, di rumori, di voci, di silenzi. I vicoli delle città del Mediterraneo si nascondono al cielo che sovrasta le città antiche, assaporano il vento che porta brezza marina e si illuminano alla luce che lotta con la penombra. I vicoli, e così i Carrugi, sono fatti di incontri. Incontri tra uomini e donne che ti raccontano le loro storie mai facili, ma sempre tanto vere. Incontri come quelli che si fanno al SUC, il Festival delle Interculture che si tiene ogni anno in questo periodo a Genova. Souk è una parola araba che significa mercato, luogo di incontro, di scambio e di conoscenza. Da questa settimana quindi andremo alla scoperta di questo mercato culturale, un'occasione unica di scambio fra culture diverse, tra la gastronomia, tra incontri letterari e musica, perché incontrarsi è già pace. E l'evento di spicco di questa stagione sarà l'arrivo delle carovane del deserto, che ci faranno conoscere la cultura Tuareg. Radio Libriamoci Web sarà presente e proverà con questo safar viaggio a chilometro zero a raccontarvi, a descrivervi i colori di questo grande mercato. Grazie per l'ascolto e l'appuntamento. E alla prossima settimana, sempre su Radio Libriamoci Web.